butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. No ragazzo, no. Fai girare, tu mi fai girare, poi mi butti giù, poi mi butti giù. Tu mi fai girare, tu mi fai girare, poi mi butti giù, poi mi butti giù. No ragazzo, no, no ragazzo, no. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Stasera la mia vita me le mani di un ragazzo. No, non la metterò più. No ragazzo, no. Giù.